best rock and roll station in the world. It's Rock FM. Il mio ultimo tour de force per questa giornata di venerdì 23 maggio. Questa sera l'Elvis Fan Club di Stagno, provincia di Livorno, Fabio Lione and the Bad Boys dal vivo. Domani sera Area Jens Pontedera a Pisa, ultimo concerto ufficiale della Rock FM All Stars Band. Marco Balducci, grande chitarrista, arriverà in Italia per delle clinic. Il 30 di maggio sarà Lucky Music qua a Milano alle ore 21 di sera, e il 31 di maggio sarà nel pomeriggio alle 15.30 presso il negozio di strumenti musicali Storti in quel di Genova per due clinic, quindi Marco Balducci. Continuiamo con i Blastema, che saranno sabato 24 maggio alle Scimmie di Milano. Travis Blues Band il 31 di maggio sarà all'anfiteatro Parco Lago Nord di Paderno Dugnano, provincia di Milano. Motor Psycho, 24 maggio Velvet di Rimini, 25 maggio Alcatraz di Milano. questa sera Pala Sharp di Milano dal vivo la formazione degli After Hours, sempre questa sera al Jamba Live di Rapallo, provincia di Genova, Obo, Ricochet e a seguire DJ set con Edo Rossi. Sabato 31 maggio, stadio San Siro Meazza, The Fratellis, The Hoosiers, Fink, The Fashion e Negramaro. Nick Cave and the Bad Seeds, 28 maggio Alcatraz di Milano, 30 maggio Villa Solaria, Sesto Fiorentino, provincia di Firenze. Napalm Death, Suffocation, Warbringer saranno nella giornata odierna al New Age Club di Roncade, Treviso, e il 24 al Rock Planet di Pinarella di Cervia, provincia di Ravenna. Glenn Hughes, 26 di maggio Teatro Fanny di Bologna, 27 maggio Music Drome di Milano. Supersonic Night, sabato 24 maggio al Lamb Light di Milano, dedicata agli Oasis con The Casuals, She Loves, Morning Sun e Supernova. E chiudiamo con un altro tributo ai Rush, la band si chiama XYZ e lo effettueranno sabato 24 maggio al fronte del porto di Genova. Termina quindi il nostro primo appuntamento di questa giornata con lo spazio di Tour de Force, il prossimo 14.35 con Max De Rio. FM. Every drop of rain that falls, it's the Sahara Desert, says it all, it's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle. grazie a Brian May, questa è la sua chitarra, il suo suono inconfondibile che è riuscito a creare. Spesso l'ho detto, sono veramente una decina, sono pochi chitarristi al mondo nell'ambito del mondo rock che sono riusciti a crearsi un suono tutto loro. Brian May, magari il Tom Morello dei Rage Against, sicuramente un Carlos Santana quando suona lui quella la chitarra, lo stesso Eddie Van Halen, Mark Knopfler dei Dire Straits. Insomma, sono veramente pochi che a occhi chiusi, senza leggere il titolo o il nome, ascolti e dici: beh, questo è Brian May, questo è il tal dei tali, eccetera, eccetera, eccetera. FM. This is John Lord. Used to be in Deep Purple. Still playing. And I know the radio station is going off the air, but all of you who are listening, keep the faith with the music. Keep listening. God bless you all. in bed. Don't want no money, you don't want no bread. If you're drowning, you don't clutch no straw. Grandi Deep Purple con la loro Lazy ci hanno accompagnato fino ad ora, 10:54 minuti primi. Ci sono anche gli Uriah Heep su Rock FM con la loro Wise Man. And I told him all the things I had to know. He said, you have a future if you need to find the truth. And in his eyes I saw that it was so. So I came right out. As he smiled, I saw a twinkle in his eye. He said, with all his years, there's still so much he has to learn. And once again, I saw that it was so. Keep on living, loving, waiting your time. Is the only way to ease your concern. Man, Uriah Heep, un po' di salutoni. Pandora ci fa sapere che sta andando alle terme. Un saluto a tutta la Rock Family, mi mancate tantissimo. Beh, buono è andare alle terme alle 11 del mattino, beata te che ci riesci. Un salutone anche a Claudio. Poi saluti a Fefo, a Mirko, da Lucca. Poi Igor, un saluto anche a te, ci vedremo magari più tardi. Poi Fede da Imola, il 31 faremo una spedizione a Milano per salutarvi. Sarà una giornata all'insegna del rock and roll. Omaggio a voi tutti della famiglia Rock FM. E poi andranno in un altro locale a Milano a vedere gli Show Strip Silence. Beh, insomma, avete già programmato il prossimo weekend. Buon per voi. 23 maggio, giornata odierna, 1968, ero piccino. Jimi Hendrix arrivò in Italia per la prima e ultima volta suonando al Piper. And the wind.